punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Roberto Scaltritti in regia. Dunque un'altra settimana, la prima settimana di luglio che si va a completare, una settimana che insomma è segnata da termini come tagli, che è la declinazione italiana del più anglosassone spending review, dunque la revisione completa della spesa, porta alla proposta dei tagli. E allora io direi di cominciare questo nostro appuntamento con un servizio, il punto realizzato per noi da Elisabetta Fiorito. Un pacchetto di misure per scongiurare l'aumento dell'IVA in autunno e riorganizzare la spesa pubblica. Il decreto sulla spending review prevede il taglio del 10% dei dipendenti e del 20% dei dirigenti pubblici. Nel pacchetto bondi invece un risparmio di 5 miliardi per l'acquisto di beni e servizi, soprattutto nella sanità. Si fissa il prezzo migliore per un bene dal mercato unico telematico e si taglia tutto ciò che eccede. Salvi per ora i piccoli ospedali, ma è previsto un taglio dei posti letto. Via le province, ma solo ad agosto, passeranno da 110 a 60. Sforbiciata ad una trentina di tribunali, 37 procure e 220 sedi distaccate. Meno di 200 milioni alle università e più di 200 milioni alle scuole private, una misura che sta scatenando polemiche. Calerà il numero dei militari in servizio, almeno del 10%. Taglio alle auto blu del 50%. Minori stanziamenti per i ministeri senza portafoglio e per i sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per il 2012 e a 40 per il 2013. Palazzo Chigi si taglierà le spese di 5 milioni nel 2012 e di 10 dal 2013. I due punti di aumento dell'IVA slitteranno così a luglio del 2013. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Provincia di Mezzate, salvi i mini ospedali. Questo è il titolo di ieri del Sole 24 Ore. 7.000 esuberi nei ministeri e anche verso lo stop a 37 tribunali e 220 sezioni distaccate. Complessivamente agli enti locali sono chiesti sacrifici per 7,2 miliardi. Poi nel pomeriggio di ieri le richieste urgenti di incontro da parte di Errani e di altri esponenti appunto del territorio, rappresentanti delle regioni, insomma un intervento pesante sulla spesa pubblica che riguarda pubblico impiego, personale delle regioni, gli immobili, tagli alle province, i ministeri, come abbiamo sentito, le SPA, i piccoli ospedali, le spese della pubblica amministrazione, ma anche i pagamenti della pubblica amministrazione. Questa è la notizia di apertura. Adesso sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane. Poi torniamo con i nostri servizi, le interviste, le voci per raccontarvi questa settimana che ora si va a chiudere. Partono oggi in tutta Italia, in tutte le regioni italiane, sono i saldi. Insomma, di solito i saldi, o almeno di solito per molti e per diversi anni, i saldi sono stati, diciamo, una sorta di festa dove appunto compiere, partecipare al rituale proprio del consumismo spinto e il tempo per togliersi degli sfizi, magari anche di andare oltre al necessario per regalarsi la propria fetta più o meno grande di benessere. Già da qualche tempo i saldi sono diventati qualcos'altro, sono diventati un termometro, una misura della crisi e delle difficoltà. Insomma, via da oggi, anticipate già da Basilicata e Molise. Secondo Confcommercio si prevede una spesa di 250 euro a famiglia per circa 15 milioni di nuclei familiari. La spesa per persona, sempre secondo l'organizzazione, dovrebbe aggirarsi di poco sopra i 100 euro per un esborso complessivo di 3,7 miliardi di euro. E qui il dato importante, pari al 12% annuo del fatturato dell'intero comparto. I consumi nel settore moda, sottolinea Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia, vicepresidente di Confcommercio, non sembrano poter crescere neppure con i saldi. Va detto però che, pur non prevedendo una stagione particolarmente entusiasmante, questo appuntamento rappresenta un evento di costume capace comunque di coinvolgere tutte le nostre città, con un appeal che riguarda anche moltissimi turisti, moltissimi visitatori dall'estero. A proposito di consumi, adesso ci spostiamo dalla moda, dall'abbigliamento, dal guardaroba alla cucina, anzi meglio alla dispensa, con Anna Migliorati. Mangiamo sempre più come i nostri nonni e per mangiare spendiamo sempre meno. La crisi sta cambiando così le abitudini degli italiani, come fotografato dai dati Istat sui consumi. Il 35,8% ha ridotto infatti la quantità di cibo che acquista. Non solo se è rimasta sostanzialmente sugli stessi livelli nel 2011 la spesa mensile degli italiani, in media a famiglia 2.488 euro, segna un più 3% la spesa per la pasta, un meno 6% per la carne. Acquisti che cambiano e anche abitudini che cambiano, riportando indietro nel tempo le lancette, dice un rapporto della Coldiretti. Il presidente dei giovani, Vittorio San Giorgio. Se prima ci si concedeva il cappuccino tutti i giorni o il caffè tutti i giorni fuori, oggi semmai si acquista il caffè in formato famiglia e lo si prende a casa, si riutilizza e non si spreca, mentre prima molte volte gli avanzi si buttavano, oggi invece semmai il giorno dopo conserva quello che il giorno prima non ha mangiato, oppure lo rielabora recuperando anche qualcosina che poi è della nostra tradizione. E così abbiamo riscoperto anche i mercati, oltre ai discount, così come il rito di pane e pasta fatti in casa. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eccolo dunque, il dato complessivo dice che il 35,8% delle famiglie nel 2011 ha diminuito la quantità e o la qualità dei prodotti alimentari acquistati rispetto al 2010. Ancora dati sull'economia della vita quotidiana: nel primo trimestre del 2012, tenuto conto dell'inflazione, il potere d'acquisto delle famiglie consumatrici, cioè il reddito disponibile in termini reali, è calato dell'1% su base congiunturale, del 2% su base annua. Questi sono dati dell'Istat. A proposito di difficoltà e tempi di crisi, siamo abituati ormai dai nostri tempi, dalla cultura, dalla nostra attenzione per il mondo che ci circonda, a fare continui riferimenti al contesto europeo e internazionale. Meno siamo abituati a farlo quando si tratta della Città del Vaticano, che proprio questa settimana ha, come dire, chiuso il suo bilancio annuale. Il servizio di Anna Rita D'Ambrosio. Un attivo di 21.843.851 euro. La crisi però morde anche nelle segrete stanze del Vaticano. Il bilancio consolidato della Santa Sede per il 2011 chiude con un disavanzo di quasi 15 milioni di euro, fa sapere il Consiglio dei Cardinali. A determinare l'inversione di tendenza rispetto agli anni passati sono stati i costi del personale, 2.832 dipendenti, e i mezzi di comunicazione, soprattutto Radio Vaticana, che in assenza di entrate pubblicitarie che sono vietate, grava considerevolmente sulle finanze d'Oltretevere. Ricavi invece in aumento su altri fronti, i musei vaticani innanzitutto, che da poco hanno sfondato il tetto dei 5 milioni di visitatori l'anno. Nel 2011 hanno prodotto introiti per 91 milioni di euro. Incrementato anche l'obolo di San Pietro, cioè le offerte che i fedeli fanno a sostegno per la carità del Papa. Un flusso proveniente da tutto il mondo, arrivato a 69 milioni di dollari. Bene anche lo IOR, con un buon risultato di gestione, nonostante le traversie legate al management e all'uscita di Gotti tedeschi. Cosa si prevede per il futuro? I cardinali, visti i tempi fluidi, invitano a percorrere il sentiero del contenimento dei costi. Taglia le spese, insomma, spending review, come direbbero nei vicini palazzi dello Stato italiano. In Vaticano però chiariscono un aspetto non da poco: tagli sì, ma senza mai toccare l'occupazione. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi facciamo un po' un tour della borsa della spesa. Abbiamo parlato dunque della moda, dell'abbigliamento, dei consumi delle famiglie e naturalmente tutto quello che riguarda invece il settore alimentare. Un altro grande capitolo riguarda il turismo, turismo attivo e passivo, insomma turismo che di cui siamo protagonisti ciascuno di noi nelle proprie vacanze, turismo che porta ricchezza, benessere alle nostre città e in Italia naturalmente. Il capitolo è importante, pensate nel 2010 il valore aggiunto, quindi la ricchezza creata nel paese dalle attività connesse al turismo, è stato pari a 82 miliardi di euro, ovvero il 6% di tutto il valore aggiunto totale dell'economia. Lo rileva il primo conto satellite del turismo per l'Italia, presentato in settimana a Roma dal ministro del turismo Piero Gnudi e dal presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Allora sentiamo la voce del ministro al microfono di Piera Ceci. Le organizzazioni internazionali stimano che gli effetti indiretti siano 1 a 2. Ogni euro speso direttamente nel turismo ha come contropartita 2 euro spesi nell'economia in generale. Sono numeri importanti, il turismo è uno dei primi asset del nostro paese come attività. Poche attività hanno un valore aggiunto superiore al turismo. Il vero problema purtroppo è che in Italia abbiamo considerato sempre il turismo come una cenerentola, non abbiamo mai fatto una politica del turismo come paese e abbiamo purtroppo fatto pochi investimenti. Pochi investimenti, dunque poca proiezione per quello che in apparenza è davvero il più affidabile dei nostri beni per il futuro, a patto naturalmente che saremo in grado di tutelare il nostro territorio, la nostra capacità di accoglienza. Naturalmente questo riguarda l'Italia, ma non solamente, ci sono paesi davvero che vivono di turismo. Mi viene in mente l'Egitto, un grande paese che proprio in questi giorni cambia pelle, faccia e presidenza e rilancia, forse l'avrete anche notato, immediatamente con grandi pubblicità, comunicazioni per invitare gli stranieri in Egitto, un paese appunto che vive anche di questo, un paese come la Turchia, dove il 10% del PIL è rappresentato dal turismo e in questi giorni tra le note che passano in redazione mi ha colpito quello che segnala le difficoltà del turismo turco di quest'estate, è rappresentata da un lato dalla crisi in Europa, quindi i consumatori privilegiati, dall'altro anche dalla riduzione attesa molto significativa del turismo siriano, un paese purtroppo alle prese con ben altri problemi che non siano appunto quelli delle vacanze. Punto e a capo. E ora parliamo di politica e partiti in questa sorta di interregno della politica di Mario Monti, dove appunto tutte le consuetudini sono state sospese, ma dove proseguono però le manovre di riposizionamento per affrontare le elezioni dopo aprile 2013. Allora, in questa settimana è arrivato il via libera dell'Aula del Senato all'articolo 1 del testo sul finanziamento dei partiti, che prevede il taglio del 50% dei rimborsi, un taglio che peraltro dovrebbe essere trasferito a beneficio delle vittime del terremoto in Emilia. Dai 182 milioni attuali si passa a 91 milioni. Sparita intanto all'orizzonte la questione spinosa dei tagli strutturali alle istituzioni della politica, insomma deputati, senatori e via dicendo, consiglieri regionali e così via. Ecco, questo rimane quasi sparito dal nostro orizzonte, dalla nostra quotidianità, in un dibattito che naturalmente ha molte emergenze e, come dire, sembra dimenticare questa parte essenziale. Mi piace ricordarlo, un numero triplo del sistema appunto di deputati e senatori che governa gli Stati Uniti. Ma nel frattempo, all'inizio della settimana, il completamento della svolta leghista, il bambino, come ha detto Umberto Bossi, è ora nelle mani di Roberto Maroni, che a inizio settimana ha presentato a Radio 24 la sua linea anche sul fronte delle possibili alleanze. Il nuovo corso che io voglio, che si è aperto ieri, consiste anche in questo. Io non voglio interferire, non voglio essere quello che dà ordini su tutti, a tutti. Il gruppo regionale

Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Ora sarà difficile per i vertici della polizia poter affermare che la sera del 21 luglio 2001, tra le 22 e le 24, alla scuola Diaz di Genova, nulla era accaduto e che i manifestanti pestati selvaggiamente da uomini dei reparti speciali si erano inventati tutto. La Corte Suprema di Cassazione ha messo la parola fine ad una delle pagine più vergognose delle nostre forze dell'ordine, alla rappresaglia pianificata contro persone inermi che nulla c'entravano con i Black Bloc, anzi si radunavano in modo pacifico in una scuola per dormire. Alla via se i diritti più elementari vennero calpestati dagli ordini esecutivi della catena di comando della polizia, che indusse i propri subordinati a sferrare un attacco violento senza precedenti, infierendo con manganelli di ordinanza sulle teste, sui corpi degli abitanti della scuola Diaz, fino a poi a trasportarli e poi trattenerli alla caserma di Bolzaneto in modo illegale, senza avvocati, senza cibo, tra sevizie, percosse e vere e proprie torture. Ora per i vertici della polizia scatterà l'interdizione. Canterini, Mottola, Gratteri, Duperi e gli altri dovranno fare posto, mettersi da parte. Gli succederanno altri che dovranno cambiare l'immagine della polizia. Voltar pagina nei metodi, nella gestione delle piazze, resta dunque il vero dispositivo della sentenza della Cassazione. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora è il momento delle scuse, così dice e si esprime il capo della polizia Antonio Manganelli all'indomani della sentenza, ribadendo di essere orgoglioso a capo di donne e uomini che quotidianamente garantiscono la sicurezza e la democrazia di questo paese. Punto e a capo. Un'emozione grande e indescrivibile, non poteva essere diversamente per Fabiola Gianotti, coordinatrice dell'esperimento Atlas, che ha annunciato al mondo intero di avere trovato una particella speciale, quasi certamente il bosone di Higgs. Fredda e calma come un fisico sa essere, la Gianotti ha riferito alla comunità scientifica internazionale di avere trovato quello che tutti stavano cercando da 48 anni, cioè proprio dall'anno della sua nascita. Al servizio. È un momento indimenticabile per la fisica, forse lo ricorderemo come l'ora X. Oggi infatti in un'atmosfera elettrica i fisici del CERN hanno comunicato gli ultimi risultati della loro caccia alla particella di Dio, il bosone di Higgs. Sono stati sobri, nonostante il palpabile entusiasmo. Hanno annunciato che è stata scoperta una particella che sembra essere il bosone di Higgs, ma che allo stato attuale potrebbe ancora essere qualcosa d'altro. Di certo i sofisticatissimi e giganteschi apparati del CERN hanno captato la firma di qualcosa di mai osservato prima e c'è meno di una possibilità su un milione che si tratti di un abbaglio. Oggi è il giorno della celebrazione, ma da domani la fisica affronterà una nuova grande sfida: guardare in faccia il nuovo venuto e verificare ogni dettaglio del suo volto. Bisognerà capire se è esattamente come i fisici se lo aspettavano e in caso contrario vedere in cosa è diverso. Basterebbero dettagli minimi per cambiare il modo in cui gli scienziati pensano che funzioni l'universo. Alcuni indizi fanno pensare che queste differenze possano davvero esserci, ma anche se la particella di Dio risulterà essere esattamente come si pensava, i fisici non potranno dormire sonni tranquilli. Resterà da rispondere a grandi interrogativi. Ad esempio, si dovrà capire cosa sono le misteriose materia oscura ed energia oscura che pervadono l'universo. Barbara Gallavotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ginevra. 3, 2, 1. Partirà nel novembre del 2014 la missione che vedrà la prima donna italiana nello spazio. L'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia Spaziale Europea sarà dunque a bordo della Soyuz che porta gli equipaggi di ricambio alla stazione spaziale. Allora avrà un ruolo che è duplice, quindi nella fase di lancio e di avvicinamento a tracco alla stazione, poi all'incirca 6 mesi dopo di rientro sul velivolo Soyuz degli amici russi sarà ingegnere di bordo. Per quanto riguarda invece il periodo di permanenza a bordo della stazione, insieme agli altri 5 membri di questo equipaggio internazionale avremo un programma scientifico da portare avanti, sicuramente verterà su quelli che sono i pilastri della ricerca in microgravità, quindi le scienze della vita, la fisiologia umana e le scienze fisiche. Ma adesso cosa succede? Da qui al momento

Fratellanza Musulmana. Ne parliamo questa sera, 30 minuti in cronaca. Il nostro ospite sarà Younis Tafwik, scrittore iracheno, che nel suo ultimo romanzo ci porta proprio nel cuore della piazza Tahrir, la piazza centrale del Cairo, luogo simbolo della primavera araba che ha già cambiato davvero il volto del sud del Mediterraneo. E a proposito di grandi cambiamenti in corso, sempre Hillary Clinton alla fine ieri dell'incontro di Parigi sulla Siria ha detto: ora Assad se ne deve andare. Il comunicato finale del segretario di Stato americano dice: la comunità internazionale ha lanciato un messaggio forte e chiaro, la violenza in Siria deve finire, la transizione democratica deve cominciare, Assad se ne deve andare. Questa è la conclusione della giornata di lavoro sulla Siria. Naturalmente sono state rinnovate le pressioni nei confronti in particolare della Russia, alleata storica della Siria e della famiglia Assad, e si vedrà appunto nelle prossime ore se al di là delle dichiarazioni è stato poi trovato un accordo per avviare una transizione, mettere fine a mesi e mesi di violenze. Eccoci qua per l'ultima parte di Punto e a Capo. Estate dunque, lo sentiamo tutti direi, estate tempo di palinsesti. La 7 dunque si porta a casa Santoro, mentre intorno alla RAI continua la battaglia, l'accanimento della politica che esalta la crisi della politica stessa, l'incapacità di affrontare anche nuove realtà. Milena Gabanelli ne ha parlato questa settimana con Alessandro Milan. Nello specifico io credo che la politica dimostri di non essere all'altezza del suo compito, ovvero questa classe dirigente ha fatto la sua strada, è arrivata al fine della sua strada ed è da cambiare in toto. Non riesco ad individuare qualcuno su cui puntare, perché anche i migliori, io credo, sono talmente invischiati in questi anni di legami e di compromessi, per cui bisogna aprire la porta e far entrare gente nuova. Questo è quello che io penso. Ma ne vede di gente nuova, perché è questo il problema. Ecco, ne vede di gente nuova. Questa domanda mi ricorda la domanda di qualche esponente di partito, che quando gli si chiede: ma perché non indicate persone competenti, mi rispondono: ma dove stanno queste persone competenti? Ma io so quali sono le persone competenti nel mio mestiere, io non faccio politica. È dovere della politica, quando siede su poltrone che gestiscono aziende così importanti, individuare le persone competenti. Non può cercarle sempre dentro al suo orto in base a criteri che non corrispondono mai né al merito né all'indipendenza. I criteri con cui è stato indicato da una parte, no, anche un po' ipocritamente, la scelta della società civile attraverso i curriculum, mandate tutti i curriculum, anche il mio droghiere può mandare il suo. Non le piace questa cosa? Questa idea non è rivoluzionaria almeno? Io credo l'idea rivoluzionaria sarebbe quella di fare un concorso, cioè si fa un concorso per meriti dove una commissione valuta i meriti, e se tu e se non sei stato scelto in base ai tuoi meriti hai uno strumento che è quello del ricorso. No, questa è una strada. Un concorso europeo si potrebbe fare per le authority, questo dovrebbe succedere, gestiscono il mercato. Dall'altra parte io mi chiedo: ma per quale motivo l'azienda la RAI è un'azienda pubblica, le nomine sono pubbliche, la politica deve essere in grado di individuare competenze necessarie per guidare un'azienda sotto i vari profili. Vale dire, un'azienda deve farla rendere, deve renderla competitiva, deve renderla qualitativamente interessante per fare servizio pubblico. Questo deve fare la politica.